delle elettrostatiche che le abbiamo portate in discoteca da paura, costavano 1.240.000 lire l'una e le abbiamo sfasciate, poi me le avevo portate a casa, se ci penso adesso da mangiarmela le mani. Vabbè, ma dove l'avevate questa saletta? Perché anche io ce l'ho avuta la saletta, è un vicolo San Leonardo. Vicino a dove lavoro io, dietro. Ah no, allora non ci sono mai andato. Io sono andato in via Oriani, sono andato a Pebai, sono andato in via Grazia dell'Eda, allo Zumbrini, ce n'era una, ne avevamo una noi, dietro l'ippodromo, che praticamente era una vecchia stalla di questo amico mio, di Greffa, poi l'avevamo trasformata in discoteca, l'avevamo fatta tutta d'arcate, c'era la gabina per il DJ, c'era tutto, poi ce l'avevano sfasciata dei liquidi che non abbiamo fatto entrare, e che abbiamo detto che era circolo chiuso e ce l'hanno tutta distrutta. No, però ci avevamo la cabina di G, ma la cosa interessante è che la nostra era nascosta, era all'interno di un cortile, nel senso c'avevi, per entrare dovevi passare in un cancello chiuso, in ferro, non con grate, chiuso proprio, tu non vedi niente, c'era un portoncino, si poteva aprire tutto, c'era il tipo all'ingresso, i tipi, non il tipo, poi quando c'era qualcuno malfamato, magari c'era anche qualche persona che si sapeva difendere, e selezionavamo le persone, poi avevamo gruppi di amici che in mezzo ai delinquenti, gente così, per cui non è mai successo niente, venivano ma gente anche pericolosa, però tra di loro, tra delinquenti si rispettavano, per cui vedevano che non ne valeva la pena, ma c'è certe greffe di gente che ne dice andiamo alla discoteca lì, non facciamo il nome, ma io ho trovato amiche mie, dopo amiche che sono diventate amiche, e dopo 40 anni, cioè ma tu eri quello che c'avevi, ma ti dico di me, un altro, l'altro giorno è venuto uno famosissimo che c'ha una cosa importantissima, non posso dire il nome, tu ti ricordi? Allora ho detto, beh, da fine, questo c'è un'attività grossissima a livello mondiale, e ci siamo trovati da poco al mio lavoro, in officina, stavamo parlando dei vecchi tempi, ma non sai quante persone ho ritrovato che sono sposate con figli, con i, che sono diventate nonne, eccetera, eccetera, che sono passate da me, che me l'hanno ricordato loro, perché venivano in officina da me, ma tu eri quello che ci avevi la sale, sì, ah, ti ricordi qua, allora inizia a ricordare, e poi ci avevamo una greffa fissa, che saranno state 30-40 persone, sempre fisso, per quello è diventata un'abitudine, tutti i giorni, ma prima, ma alla fine si stava allargando troppo, perché poi quando inizia a mettere musica, anche la sera, la gente alla fine si stufa, e alla fine ha detto, boh, chiudiamo tutto, siamo stati per un po' di tempo chiusi, in modo che la gente non ci venisse più, e poi piano piano ci facevamo le festicciole per pochi intimi, perché stava allargandosi troppo. Di nuovo a te Gianni, ancora qualche minuto e poi vado via. Scusate. Praticamente era successo così, che questo amico nostro aveva il principale che aveva le bancarelle di Piazza Torre e aveva questa cantina a Sassari Vecchio, vicolo San Leonardo, quello che poi sbuca dove c'è, come si chiama, via Cesare Battisti, quella discesina lì, quella strettoia che c'è, e fatto sta che gli ha detto, se la volete la cantina ve la do, non vi faccio pagare manco affitto, perché tanto ci sono buttato tutta la mollezza dentro, l'abbiamo tutta pulita, avevamo amici muratori, hanno fatto tutta la calce espulso, tutte le arcate che c'erano, perché non è bella, era fatta tutta da arcate, e quelli muratori hanno fatto i sedili con i cantoni bianchi e lui le travi, poi le hanno ricoperte, c'erano amici che facevano i tappezzini, le hanno ricoperte, fatte bene, era venuta bellissima, non bella, bellissima, e frequentavamo noi e poi qualche amico ristretto, poi hanno cominciato a venire delinquenti e cose, abbiamo detto che era circuito chiuso e ce l'hanno distrutta. Capa, vado. Poco fa non ho salutato, allora io stacco, ciao Gianni, ciao Roberto, buon proseguimento di serata, ci sentiamo quando capita, dai, quello è esecutivo, così faccio in cucina, metto mano. Ok, ci sentiamo, grazie delle quattro chiacchiere, ci sentiamo, dai, ciao a tutti, ciao, vai Roberto. Okay, grazie anche a te Marco, è bello ricordare queste cose, poi mi gaso tantissimo quando si raccontano i vecchie storie delle radio e delle televisioni. Vai Gianni. Ciao Marco, ciao, buonanotte, dai, ci sentiamo. Se fai l'orecchio di porco buon ascolto. Avanti Roberto. Sì, anche io qualche minuto. E tra l'altro io ho mangiato presto, poi c'era uno spuntino di quelli sgranocchiati, dai, che c'era il terzo tempo della partita, ed io ho mangiato i panini, quelle cose così veloci, cose così, e non avevo fame, perché normalmente io mangio intorno alle 8 così. Adesso sta iniziando a arrivare la fame, però sono già le 10:30, per cui ci mangerò in ritardo, dai, rispetto al solito, qualcosa così veloce, perché non è che c'ho molto fame, però tanto per sgranocchiare, così non rimane a stomaco vuoto la notte. No, il rischio è che di questi cicoletti e cose così ce ne sono state tantissime, però l'unica che ci poteva iniziare a chiamare discoteca dentro città era il Pebai, con la villetta, anzi sbaglio, che era all'epoca la più bella di tutti, il Serra Nera in via Milano, che poi è diventata Atrium, quella era la più bella discoteca della provincia di Sassari, senza considerare le dimensioni. C'aveva un impianto luci unico, tutto a coso, tutti a LED, non a LED, a neon, erano grandi discoteche, usavano i faretti, queste erano tutte le pareti illuminate. Conosco chi ce l'aveva, i padroni eccetera eccetera, siamo andati anche quando era chiusa eccetera eccetera, con i proprietari l'hanno disintegrata e poi l'hanno rifatta. E non so se ti ricordi, in Serra Nera era un ragazzino, non era ancora maggiorenne, i proprietari erano amici nostri, tra l'altro uno dei figli eravamo stava in Grefa con noi, ci aveva portato di lì, era una bellezza unica, mi ricordo l'acustica era da paura, e poi sono nate tutte le altre, il Biblos, il Marini eccetera eccetera, parliamo nel circondario di Sassari. Però il Serra Nera era una cosa da paura, piccolina, una villa come adesso l'Atrium, ma era da paura la discoteca, la bellezza dell'impianto luci era bellissimo. Mamma mia, c'ho un brutto ricordo io. Sono stato tutta la sera ballando con questa tipa, ero con questo amico mio che parlava strano, perché questo qua era un draghetto della discoteca e stava parlando tutta la sera con questo uomo, questo che è strano, e ballando con questa tipa ho detto ma sì, sono lei, ma ha detto sì, non sono fidanzata né niente, tutto. Poi mi si è avvicinato questo amico, mi ha detto già lasciala perdere, quello lì non vedi come sta parlando, come quello lì è il maniaccio, è una prostituta che si addesca ai tipi per poi pagarla, capito? Sono stato tutta la sera per le notte poco con questa qua, però una prostituta. Bisogna stare attenti, io conosco, vabbè, non era raccontare qua certi episodi di amici miei, di carissimo amico e amiche, anche l'altro amico suo, quelli hanno rischiato la vita, perché poi sono andati a cercarle le tippe, erano di quelle tippe entre i news di Coso, e Coso li ha minacciati di morte, attenzione, ci avevano dato appuntamento, queste tippe erano, non si può guardare, non si può raccontare qua, dai. Alla fine hanno dovuto rinunciare, perché queste volevano liberare, erano di quelle tipo schiavizzate, cose così, cose bruttissime, questo negli anni 90 è successo, che poi stavano tutte di lì nel litorale di Sorso, queste ragazze che stavano nei night, poverine, e poi le portavano la sera, il magnaccione, il cosiddetto magnaccio, andavano a cristallo a Porto Torre, eccetera eccetera, e loro si sono li ha presi poi in disparte e li ha fatti belli belli a tutti e due, li ha fatti cagare sotto, però purtroppo così, in quegli ambienti lì devi stare molto ma molto attento. Ma io le discoteche, non per fattarmi già, tutte le discoteche della provincia di Sassari, tutte, forse non lo so se ce n'è qualcuna, ma di quelle poco conosciute, io ogni sabato e ogni domenica noi eravamo fuori a ballare, soprattutto il periodo estivo, poi andavi a cercarle, quando andavi in zona di Costa Smeralda. Io sono andato in una discoteca che non era a tutti, il Gils, c'era una discoteca dell'epoca, erano le più importanti, era il Gils, che era di Gil Caniera, il più grande stilista, il mio stilista Coffè, chiamiamo delle rive, dove andavano tutti i pezzi grossi, in quella discoteca lì. Noi siamo riusciti a entrare, eravamo in cinque, randaggi, vestiti camicia baiane, bermuda, ciabatte, proprio ci hanno preso per milionari, non lo so. Tu dovevi entrare di letto, non ti facevano entrare, a nessuno, venivano gente, anche gente al blocca, non li facevano entrare. A noi come ci hanno visto, prego, prego, prego, ci hanno fatto entrare già. C'era presidente della Mercedes, c'era Coso, Mike Bongio, cioè a livelli di lì, era una villa di lì, Costa Smeralda, da Porto Cervo, era una cosa da paura. C'era il DJ che c'era la settimana dopo, l'ho visto sul giornale, la rivista Gente, e c'era il programma dove c'eravamo noi, questo DJ mondiale, a livello mondiale, c'era come tavolo di gela, un affare in pietra, e c'erano i 2002 col mixer, o in pietra, era una cosa in pietra, tipo blocchetti, cose così, e era DJ con la piscina dentro, una cosa, tutti i playboy di quei pezzi a pigliarla in cosa, che tu vedi solo nei film queste cose, tipo quelle vacanze alle Hawaii, film così di Sica e cosa, e lì noi siamo entrati davvero. Io mi ricordo una tipa, è arrivata una tipa con una moto enduro, una stangona, mi ricordo era bellissima, alta, con gli stivali, con questa XT600, una Yamaha mi pare che aveva, ma tu solo a vederla, una modella, non l'hanno fatta entrare, no, tu qua non c'entri, e a noi ci hanno fatto entrare, io non so per quale motivo siamo riusciti a entrare, perché non facevano entrare a nessuno, o ci hanno scambiato per qualche di un'altra, e siamo stati tutta la notte di lì, ho visto delle cose e rimanevo a bocca aperta, detto, ma solo nei film le vedi, e noi eravamo di lì, in mezzo a questa gente qua, tutta super miliardaria, e poi ci andava ancora all'aro a Santa Teresa, a Ritual non sono mai entrati, che Ritual era la più bella discoteca a livello mondiale, era dentro le rocce, in queste caverne che c'erano i tavolini in pietra naturale, era una cosa da... e poi tutte le discoteche le abbiamo girate tutti, avevamo, c'era la macchina con il cappello per la mattina, ti ritiravi, dormivi, lasciamo quelle. Io l'ho organizzato con la macchina mia, ero organizzatissimo, avevo tutto, e poi di domani era a pezzi, distrutto, però li potevi fare, poi te ne andavi in spiaggia e ti addormentavi perché eri suonato, però ti posso dire tutte, non dico tutte perché tutte, però le principali discoteche sono tutte fatte, quella più bella è Lady Night, secondo me la discoteca di Coso, nel Cagliaritano non sono andato perché c'era il K2 e il Migues che erano le discoteche più grandi della Sardegna, ci stavano 3.000 persone, e dove c'era Sandro Murru erano le discoteche, c'erano le registrazioni però del K2, c'era ancora conservato di Sandro Murru, che era un mostro, era una cosa, era un piacere ascoltarlo, poi un coinvolgente, un artista completo, cantava, mixava, cosa cavolo che non faceva, era un intrattenitore nato, faceva la musica, si metteva a cantare lui con una base musicale, faceva boom boom boom, gli effetti con la bocca, era un mostro, e poi ci andava molte volte al Corallaro a Santa Teresa, che era un ambiente allucinante, la paura. Posso? Buonasera, ciao Gianni, ciao Roberto, ben ascoltati, sono entrato solo a salutare perché vi ho sentito, perché non posso rimanere. Avanti Gianni. Ciao Fra, mi hai sentito anche a te, dai. Trattenete 10 minuti almeno. No, non posso, se non mi sei ritrattenuto, qual è il problema, ho delle persone. Niente, solo per salutare perché vi ho sentito appena acceso, ho visto chi c'era e allora sono stato almeno a salutare. Ok, comunque vi saluto, dai, buon proseguo, buon tutto, ci risentiamo. Riprenderò bene. Ciao Franco, mi senti? No, siamo a breve, vabbè, Gianni magari è arrivato un po' più tardi, però c'è la prima mamma che ho chiamato, ci sarò più di un'ora qua in radio, va? Però abbiamo fatto argomenti interessanti, dai, adesso siamo arrivati alle discoteche, vai Gianni. Grazie per essere entrato Franco, dai, comunque Ritti, allora, se ci ascolti, comunque Rix, il K2, io sono andato a Stintino al K2. Poi sono andato di recente, sono andato in locali un po' carini, sempre in zona Costa Smeralda, come si chiama? Il Bahia Sardina, come si chiama? La discoteca bellina, però sono di quelle aperte, quelle estive, non me lo ricordo più, però dici, vedi, personaggi da paura, mamma mia. Poi è un ambiente completamente diverso, cioè non è andare in mezzo ai ragazzetti, come andavi per dire in certe discoteche, verare tutta marmaglia, le cose lì, è tutto super selezionato. Sono andato un paio di anni fa l'ultima volta lì. E poi qualche anno fa sono andato da grande, diciamo da sposato, io dico da grande, e sono andato a Bologna, mamma mia, in due locali a Bologna, cose neanche ti immagini già. Lo so, perché mia figlia abita lì, mi manda i filmati, lo so, dunque, mia figlia abita a Bologna, quindi va a ballare perché c'ha 30 anni mia figlia, quindi va a ballare tutto. Mi manda i filmati, vedo fiumane di gente dentro queste discoteche. Se lì c'è coronavirus, si ributta già di su. ma io sono andato a Bologna in questa discoteca che apre tutti, vabbè, apre in altri giorni, però in particolare il giovedì, e tu dici ma che vanno il giovedì discoteca? Io mi sono spaventato, e vanno tutti quelli, non so, gli infermieri, dottoresse, degli ospedali, lì è pieno di ospedali in questa zona, sono ospedali che, e si danno appuntamento tipo quando fanno la festa dei medici al Blue Star, che la fanno una volta all'anno con la festa beneficente. Tutti i giovedì vai in questa discoteca, è pieno di gente, ma no ragazzini, gente grande, dai, ambiente grande, ma tu vedi la bellezza di questo, ti mettono musica tutti anni 80, diciamo persone dai 40 ai 50 anni, sino ai 50, anche dai, diciamo dai 30 ai 50 come target di cose, ma tu vedi la bellezza di divertimento. Ma poi quando sei con gente di un certo, di certo cosa, non è come andare in mezzo ai ragazzini che sono tutti in mezzo alla mondia, cioè non è bello, di lì invece ti trovi con gente di lì che magari c'hai tutti i suoi gusti musicali, poi si mette a ballare, a fare, è diverso, è molto più bello. Mi ricordo, sposato sto parlando, devi stare attento lì. Ti trascinano questi amici. Chi è che stanno comportando? Lo passo io. Sì. Vabbè. Qua arriva 9.20, tu sei 9.30 già. Vabbè, fregatene allora, non fare. Ignora. Ma a te quando ti arrivi? Boh, non lo guardate il segnale. Santiago no. Quindi più vicino a me come direzione, era un bel segnale, come... vabbè, non ci frega, tu lo passi e io lo passo. Quanto arrivo da te già? Pronto? Io, il mio segnale quant'è? 9.25. Quindi lo passo tranquillamente. A te un pochettino ti disturba, però lo passi abbastanza tranquillamente, dai. Magari se si mette a parlare, a dare comunque pazienza. Diciamo che uno che magari non riesce a uscire in radio, lasciamo quello. Può anche essere, Roberto. No, te l'ho detto, a me la radio non mi fa arrabbiare, già. Quando mi stufo spengo tutto, non mi sentirai mai bisticciare. E lo so, ma a volte stai facendo discorsi importanti e ti dà fastidio che ti interrompano, capito? E vabbè, futtizzina, tanto ho detto ancora un paio di minuti e poi vado via, poi se ci vuole divertire, no, non lo so, sono problemi sui, non mi interessa. Io molte volte lo dicevo anche agli altri, qualcuno si arrabbiava, ma cosa di una futi, non ti va bene, sentivo gente bisticciare, parolacce, bestemmie e tutto, ho detto ma ti pare che io mi devo bisticciare per la radio? A me ti ho detto sempre, il lavoro mio è un altro, la radio non me ne dà da mangiare, è un diversivo, mi serve per sfogarmi dallo stesso quotidiano, e mi ti devo arrabbiare con qualcuno. Sì, la passo, buonasera. Sì, Tito, sì, la passi, sì, sì, 9.30, no. Ciao Gianni. Vabbè, dai, volevo sapere se era... perché qua è bassa, È bassa, ciao Roberto. Tino, sta uscendo male però, me, sei tutto saturo. Saturo? Aspetta che provo a guardare, scusate. No. No, niente Tino, è la portante, siete allo stesso livello, per quello sembri saturo, è la portante che si sta cavalcando. Molla tutto di che sei tranquillo. No, ma è saturo, infatti non pensavo, anche perché non ho niente attaccato. No, scusa Tino, era la portante, si sovrapponeva al tuo segnale, per cui ti attenuava parecchio. Ah vabbè, l'importante è che la passo poi. Nulla, come non detto, però signori, io adesso vado a mangiarmi qualcosa, poi probabilmente vado, guardo un pezzo di televisione e mi curico, dai. Vi saluto, scusa Tino, non ho avuto modo di prolungare la conversazione perché ci sono più di un'ora, prima con Marco, poi con Gianni e altre persone. Saluto a tutti, saluto anche qualcuno che sia all'ascolto, qualcuno che mette le portanti, saluto a tutti. Ciao, cuore da parte mia. Ciao Robert, ci sentiamo, avanti. Va bene, ciao Robert, ciao, buonanotte. E allora già, come stai? Bene Letti, grazie a Dio, mi sono ripreso al 100%, dai. Adesso cammino bene, tranquillo, non ho più dolori, sono proprio rilassato, qua non mi sembra vero, dolori alla gamba non ne ho più, sì qualche dolorino magari dalla vecchiaia, ma non sono più quei dolori che ti fanno soffrire. Sì, vabbè, quelli ce l'abbiamo un po' tutti, o perché è preso freddo da giovane o perché qualche caduta e balle varie. E vabbè, quelle, meglio che ci siano quelli, dai. Poi sai quante volte mamma mi diceva non uscire con i capelli bagnati che ti fa male, eh? E io uscivo con i capelli bagnati perché mi si facevano a buccoli, mi piacevano di più, capito? Sì, sì, vabbè. Chi è che non l'ha fatto? Per carità, oia, in moto poi, io vi. Va bene, va bene. Ogni tanto ti vedo, anzi ti sento. Ti sento cantare, che è una gabbina. Qualcuno che stava provando. Ma era fu. Può darsi, può darsi. Oh, Yavi. E te show my friend. Italy from Sardinia. No, non ci sento, non si sentono anche a tre bugini. Cos'è, domani non ci vai in gita? No, domani siamo trasferti a Porto Torres. Gioca mio figlio, quindi dobbiamo andare anche presto addirittura. E vabbè, gioca verso le 9:30, anzi prima c'è alle 9:20 lì, e poi giocherà alle 10:30 circa. No, per capo con. Sì, aspetta un attimino. Scusa un attimino. Sì, sì, sì, vabbè, è così. No, ora siamo in trasferta e non lo so, non so che squadra sia, credo che sia Turritana, non lo so, non mi sono informato già. Sì, ma il campo qual è? Quello di Via delle Vigne o campo come? Dove giocava la Turritana prima? Boh, non lo so, forse quello di Via delle Vigne. Qua non me lo chiedere perché sono andato una volta tanto tempo fa per una partita se ce l'aveva fatto lui, ma era molto piccolo, quindi non me lo ricordo. Sì, vabbè, domani lo saprà lui, dai. Sì, non chiameranno. Scappa, capo. E Lotto Maier, come sta? Guarda, sta bene, però mi ho notato, sopra Lucchia, non so se si è attaccato con qualche cane, se saltando la rete si è graffiato, una cosa del genere, una cosa che poi manca un po' il pelo quasi vicino al sopracciglio, vicino all'Lucchio. Sarà qualche dermatite, non controllo la vedere. Non so, devo portarlo a controllare. Però così su due piedi non saprei cosa sia già, capito? Ma si vede proprio la pelle senza pelo oppure com'è la storia? Beh, si nota molto perché lui è proprio nero foccato, proprio nero nero. Come che ci manca il pelo e la pelle è bianca, capito? Può darsi che sia anche, può essere anche dermatite, farlo vedere, perché a volte anche quello che mangiano li fa perdere il pelo, lo sai. Questo lo ignoravo, non lo so. Non te lo so dire, però vabbè, adesso lo lascio così un paio di giorni per vedere un po' se la cosa degrada o meno, capito? Dopodiché lo porterò. Ma è molto grande la chiazza? No, cosa ti posso dire? Quanto la grandezza di una, della circonferenza di una penna, avanti. Io allora, ecco, caro, pensavo molto di più io. No, ma magari è qualche cosa che l'ha perso, può succedere, a volte anche giocando con l'altro cane lo morde e lo stacca, con l'altro ci gioca. Sì, ma ora non tantissimo, dai. Ma lui è molto, va da tre parti, salta, si raschia, si apre la pelle. È un trattore, è uno, oh yeah, lascia perdere. E sto pensando infatti che sia questo. grazie magari che io non sono accorto. E l'altra volta accarezzandolo nella schiena, aveva una sorta di graffio circa 5-6 centimetri già con la crosta. E cos'era questo cane? Ecco, vediamo, guardo, ed era la crosta, e sicuramente si è graffiato nel filo spinato e poi è chiusa la crosta. Ma adesso hai chiuso davanti a casa tua oppure è tutto libero lì? In che senso? Nel senso che magari lui può uscire oppure è tutto, c'ha qualche cosa per, non so, filo spinato o che cosa, è chiuso attorno alla casa. No, già, io ho tutto recintato, però molte volte lui, per seguire i gatti soprattutto, mi alza la rete, passa sotto la rete, non faccio altro che mettere i picchietti, quindi posso pensare che sia fatto anche così, quando alza la rete. Tu pensa che è riuscito a entrare nel pollaio e mi ha ammazzato una gallina anche. No, perché io mi ricordo una volta solo che sono venuto a casa tua, che c'era uno spiazzo grande da fronte a casa tua, ma era tutto libero. Non mi ricordo che fosse recintato, capito? Per quello te l'ho chiesto. No, vabbè, tu sei entrato nel cancello o il piazzale grande? Però in giro sulla campagna sto chiuso, sto recintato. Questi cani qua, è come carattere, come è vero quello che dicono, oppure dipende sempre dall'animale? No, più che dipende dall'animale dipende dal padrone, perché io fin da piccolo sono abituato a stare con la gente, con i bambini piccoli, in mezzo alla gente, proprio con tanta gente, quindi tutti quanti lo accarezzano, lo giocano, è molto docile come cane. Poi, ti ripeto, se lui decide che deve morsicare, morsica, non è che è sempre un animale, per carità, però non l'ho addestrato, gli ho sempre imposto un pochino le coccole, diciamo. Invece Tyson è diverso, di Tyson c'ha un carattere, lo devo portare con la maschera, con la museruola giù, perché se vado a toccarlo saltando sulla gente, la musica, non sopporta essere toccato. La grande la musica lui su Pitbull, anche c'ha un bel carattere, e se non ti conosce, ti dà dei ruguri, ti fa dei ripresi e tutto, se non ti conosce ti salta addosso, secondo chi lo tocca, però va a pelle, capito? Adesso per dire, è venuto un ragazzo che manco lo conosceva a casa, perché mi ha telefonato per vedere se mi era scappato un pappagallo, siccome questo qui mi aveva già trovato l'altro pappagallo che mi era scappato, e ho detto no, a me non è scappato il pappagallo, ma non so che cosa dare da mangiare, ti ascolta, fai una cosa, passa a casa, visto che mi avevano fatto la cortesia di avermi ritrovato quello, il pappagallo che parlava e costava anche un po' di soldi. Ho detto vieni a casa, ti do un po' di mangime e è una spiga di grandi, di panico, così tu glielo metti e lui mangia quello. Dice guarda, si vede che è abituato, che sta sul braccio, si fa carezzare, tutto quanto, si vede che è un pappagallo addomesticato. E non era di una signora che abitava lo stesso suo palazzo, che li faceva volare, capito? Li faceva volare e poi tornava. Lui si è sbagliato per razzino di entrare per razzino su. Lo so. No, vabbè, ma questo è abituato alla gente, dai, già. Poi, giustamente, se c'è qualche cane che rompe, allora si mette sugli attenti e non si deve avvicinare, perché sennò va in protezione nei miei confronti, capito? Quindi, è così. Va bene, Gianni, dai, sono entrato a salutarvi e domani è una giornata un po' lunghetta, quindi devo... Poi anche oggi è stata devastante, mi devo riposare, dai. Ti saluto e ci sentiamo nei prossimi. Ciao Gian, buonanotte. Ciao Tino, ciao, grazie per il questionario. Ci sentiamo, buonanotte anche a te. Eia, ciao. Un saluto anche a tutti gli ascoltori. Vai che non ce ne sono ascoltori. No. nonno c'è tutti i guai. La peggio per loro che hanno gli orecchi di porco, come diceva l'amico mio. Va bene, ciao ciao ciao. Ciao.